Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti gli Artemista da Novara. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Vivere Immobile, come il primo che è andato in onda. Titolo? Titolo Fantasma, è stato il primo singolo estratto dal nostro disco, di cui abbiamo fatto anche un video, che è visibile sul nostro sito oppure sul nostro canale YouTube. Con la produzione di Monkey Factory di Milano e la regia di Francesco Collinelli e Morgan Silvestri. È un brano cui teniamo particolarmente per il messaggio che lancia, insomma. Bene. La vostra esperienza durante le sessioni di registrazione, quali sono le linee guida che hanno tracciato questo primo disco? So che ci avete messo moltissimo tempo per arrivare, dopo tanti anni, ad una incisione che sia di alta qualità. Sì, esatto. Per fortuna che proprio quando avevamo deciso di iniziare queste registrazioni è subentrato Davide, è diventato il quinto componente del gruppo, e lui, avendo uno studio, abbiamo deciso di registrare da lui e ci siamo lanciati a capofitto in... già, ecco, voglio nominarlo, il V3 Recording Studio di Casale Monferrato, anzi a Treville precisamente. Treville. È un bellissimo posto in collina, sembra quasi di registrare in Canada. E ci siamo lanciati a capofitto, e questo comunque ci ha permesso anche di non dover star lì, come abbiamo fatto in passato, con gli occhi puntati sull'orologio. Sì, quindi... è stata un po' una doppia sfida, quindi la sfida sia a livello di scrittura del disco, ma anche a livello di realizzazione, perché avendo fatto diciamo in autonomia, abbiamo avuto la possibilità di fare delle scelte a livello artistico, insomma, con più libere, insomma, esatto, ecco. più libere e con più criterio anche. Comunque, la prossima canzone per i nostri ascoltatori, la prossima canzone è Vivere Immobile, che è la canzone che dà il titolo al disco, quindi è un po' il messaggio che vogliamo dare. Siamo sempre con gli Artemista, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i giornalisti hanno segnalato. Ancora non hanno segnalato nulla perché il disco è appena uscito. Certamente. Sicuramente abbiamo avuto un buon feedback dalle persone che hanno acquistato il disco. E, insomma, ci hanno ricontattato sulle nostre pagine Facebook. Insomma, sono stati soddisfatti. Quindi per noi è sicuramente un buon riscontro. Certo. Tanti complimenti. Ecco. Prossima canzone. La prossima canzone è La sessione di prova. E ci tengo particolarmente a dire all'ascoltatore di dare attenzione, un'attenzione ancora più particolare al testo. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Artemista. Incomprensioni ingannano la mente, la coesistenza è accettazione del regolamento imposto, la sua inclemenza, la selezione naturale che si compie non è frutto della mia inclinazione, ma è una conseguenza della tua incoerenza. La sessione